Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo dell'intervento della Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde nel giorno in cui poco fa la regina Elisabetta in Gran Bretagna ha firmato, è un atto formale comunque, ha firmato il via libera, diciamo così, alla Brexit, e anche di questo parleremo. È chiaro che è un atto formale, ma la regina mette solo la firma. L'atto si chiama European Union Withdrawal Agreement Act, che ieri aveva concluso l'iter di ratifica parlamentare a Westminster, a 3 anni e 7 mesi esatti, diciamo, dal referendum in cui la Gran Bretagna nel 2016 decise di uscire dall'Unione Europea. Tra l'altro, su questo ne parleremo nella seconda ora, ma c'è una dichiarazione oggi da Davos anche del ministro dell'economia americano, il segretario al tesoro Steven Mnuchin, che ha detto gli Stati Uniti intendono concludere entro quest'anno un accordo commerciale con il Regno Unito del dopo Brexit. Citavo la firma della regina perché della Brexit ha parlato anche appunto Christine Lagarde nella conferenza stampa dopo il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Ha detto che la BCE ha preso tutte le misure necessarie per far fronte alla Brexit e siamo preparati. Ad essere preparato, secondo il commissario europeo agli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, è l'intera Europa. Abbiamo 11 mesi per un accordo di libero scambio, un periodo molto breve. L'Unione Europea è pronta a fare del suo meglio per una relazione migliore possibile. Se il Regno Unito, ha aggiunto Gentiloni, vuole ampio accesso al mercato unico, siamo pronti, ma non dipende da noi, ci aspettiamo condizioni paritarie. Dicevo, di questo parleremo perché la Lagarde ha anche affrontato il tema delle quelle che lei ha chiamato revisione strategica ad ampio raggio della politica monetaria. Cercheremo di capire che cosa poi significhi in concreto. Altro tema, oltre alla Banca Centrale Europea e alla Brexit, che affronteremo, riguarda i dati usciti oggi, sono relativi al 2019, dall'Osservatorio Congiunturale dei Trasporti di Confcommercio, elaborati con Conftrasporto. Perché ci interessano? Perché è un indicatore che dà una misura dell'attività economica, soprattutto lo scenario del trasporto merci. Chiaramente più aumenta il trasporto merci, più è attiva e in fibrillazione l'attività economica. Ecco, così non è stato. Solo lo 0,5% nel 2019 è stato l'incremento del trasporto merci trainato dal trasporto su gomma, e questo segnala, poi c'è il trasporto marittimo per vie d'acqua, il trasporto aereo e tutta l'attività di magazzinaggio, attività di supporto. Dicevo, il dato conferma una sostanzialmente stagnazione dell'economia italiana, anche perché si confronta invece col dato sulla mobilità dei passeggeri che, spinta dal turismo, è comunque cresciuto del 2,5%. La buona notizia è che sembra funzionare la cosiddetta intermodalità, cioè gli spostamenti su treno e nave, quindi dalla nave al treno, ma anche dal treno alla nave, che appunto è in aumento nonostante alcune difficoltà dei nostri porti e soprattutto retro porti. La borsa nel frattempo, allora, molto piatta oggi le borse, c'è un po' di tensione sui mercati per via del coronavirus, hanno aperto deboli o in netto calo, il timore è quello di un contagio mondiale che vada a rallentare anche, e a colpire poi anche settori economici. Parigi adesso perde lo 0,70, Francoforte un punto percentuale di calo, Londra meno 0,90, Dow Jones meno 0,60. Questa mattina brutta la giornata per le borse asiatiche, soprattutto Hong Kong meno 1,80%, comunque anche il Giappone ha perso l'1%. Dicevo, per Milano invece è quella tra le borse che si comporta meglio, nel senso che è invariata, grazie ad ST Microelectronics che guadagna il 6%. e 55%, dopo dati sul 2019 e stime in rialzo sul primo trimestre. Era con l'H, la municipalizzata, più 2,81%, Terna più 1,30%, Recordati più 1,20%, Enel più 1%, A2A più 1%, come Italgas. Chi cede oggi? Moncler, meno 2,55%, Pirelli meno 2,20%, come Saipem, il 2% lo perde Prismia, l'1,60% Banco BPM, l'1,5% Ferragamo, l'1,20% Fiat Chrysler e la Juventus, ma anche Diasorin e Ubibanca. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo rapidamente con le altre notizie in breve. Restiamo in tema, come sempre, in apertura di temi di carattere internazionale, perché da Davos è intervenuto il ministro dell'economia italiano Roberto Gualtieri, il quale in un'intervista a margine del forum ha detto che sulla tassa, sulla web tax o digital tax, ci sarà un accordo globale, che è la strada che noi preferiamo, oppure in alternativa i paesi europei e anche l'Italia andranno avanti con le loro imposte nazionali. Questo nonostante appunto le minacce di Trump in merito a possibili reazioni, quindi dazi degli Stati Uniti se dovessero andare avanti in Gran Bretagna e Italia con la web tax. Già ha ottenuto uno stop dalla Francia, però poi il ministro dell'economia Le Maire ha detto che, essendo un voto del Parlamento, la Francia comunque la tassa sui colossi del web la applicherà. Staremo a vedere. Per quello che riguarda invece, mi chiedete dello spread, lo spread oggi è a 158 punti, il rendimento del decennale all'1,32%, Conte non andrà, come molti di voi già sanno, il Presidente del Consiglio, a Davos. Devo dire che anche la sua assenza è stata assolutamente compresa, diciamo così, anche dal segretario generale dell'OCSE Angel Gurri. Ha detto: credo che Conte abbia fatto esattamente quello che doveva fare. Il motivo per cui Conte non va a Davos è che tra l'altro c'è un consiglio dei ministri questa sera alle 21, dove dovrebbe arrivare il decreto sul cuneo fiscale, sul taglio del cuneo fiscale a partire da luglio per 3 miliardi, e alle 18, quindi tra poco, il Conte presiederà il cantiere Taranto, che non ha a che fare, non sono misure che riguardano l'ILVA in maniera diretta. E appunto, e poi c'è tutto il tema delle nomine. A mio avviso, appunto, si può anche saltare Davos, mettiamola così. Visto che siamo sull'Italia, diffusi oggi dall'INPS i dati su cassa integrazione e domande di disoccupazione e i contratti nel 2019. I dati sono ancora sui contratti per i primi 11 mesi. Allora, la cassa integrazione è aumentata del 20%, sono state autorizzate 259 milioni di ore di cassa integrazione. Le domande di disoccupazione a novembre hanno fatto più 1,3%, però la buona notizia è che nei primi 11 mesi ci sono stati 438.000 contratti stabili in più, quindi il 111%. La nostra Teresa Trillò ha chiesto al presidente del consiglio di vigilanza dell'INPS, Guglielmo Loi, come stiano assieme due dati apparentemente contraddittori, cioè l'aumento delle ore di cassa integrazione da un lato e l'aumento però anche dei contratti stabili. Sono dati solo apparentemente contraddittori. Da tempo, da anni, dopo la grande crisi del 2009, il sistema produttivo ed economico italiano vede al suo interno convivere dati di positività, a volte di eccellenza, e dati di grave crisi. Regge il sistema delle esportazioni, quindi ci sono aziende, come dire, molto competitive, e nel contempo aree produttive o altri settori o singole aziende che vanno in crisi. Questo viene indicato dall'aumento della cassa integrazione straordinaria, che significa ristrutturazioni, la ripresa della cassa ordinaria, che significa difficoltà temporanee, ma dall'altra parte il dato delle assunzioni stabili segnala che ci sono imprese, aziende, settori che tengono e che investono anche sulle proprie risorse umane. Non c'è da sorprendersi, anzi, credo che dovremmo convivere con questo sistema, e chiaramente le norme in qualche modo possono aiutare a sollevare le aziende in crisi o incentivare le assunzioni. I dati sulla cassa integrazione ci dicono che è aumentata quella straordinaria più 31%. Che cosa è accaduto? Intere filiere o alcune grandi aziende sono andate in grave crisi. Pensi che se solo l'Ilva richiede cassa integrazione per 1.000, 2.000, 3.000 persone porta il dato molto in alto. Poi ci sono stati altri casi, metalmeccanica, Noti, Whirlpool e altri. Una singola richiesta di azienda, come dire, tira molto dal punto di vista quantitativo. Quindi questo segnala ancora una volta che ci sono crisi e ristrutturazioni industriali molto, molto radicali. I contratti invece aumentano quelli stabili. Cosa significa questo dato? In questo caso c'è un incontro di due aspetti. Le norme, e cioè aver stretto i cordoni del contratti a termine, ha dirottato una parte delle imprese che forse ne abusava, diciamo così, a stabilizzare alcuni propri lavoratori. Dall'altra segnala senz'altro che c'è in alcuni segmenti, aree produttive, una tenuta e una ripresa. Certamente questo va verificato nel tempo per capire se il calo dei contratti a termine è fisiologico e quindi, come dire, può essere recuperato, oppure vede ridurre il numero di lavoratori impegnati, cioè il dato occupazionale in generale. Per verificare questo forse è presto e bisognerebbe riflettere quanto pesano gli incentivi che i dati ci dicono sono significativi per le scelte delle aziende a stabilizzare alcuni propri lavoratori, quindi risorse necessarie per dare stabilità. Andiamo avanti con altre notizie in breve. Allora, Unilever, che è una multinazionale, il colosso anglo-olandese, che aveva ha acquistato le gelaterie italiane Grom nel 2015, ha annunciato che chiuderà 7 gelaterie su 42. In realtà la notizia, che oggi su Sole 24 Ore, è un po' più ampia, perché da quello che si è capito vorrebbe portare i gelati di Grom più sul canale di vendita della grande distribuzione che non sulle gelaterie. Tra l'altro la crescita comunque dal 2015 al 2019 ha fatto un più 46% in tutti i canali. Dei furbetti del reddito di cittadinanza parleremo domani. Anche oggi è arrivata un'altra valangata di a parte il fatto che c'è stato anche un caso pazzesco, non voglio anticipare la classifica di domani. Oggi ne hanno beccati 237 a Locri. Li beccano sempre però da indagini che nascono per altri motivi, questo è un po' preoccupante delle volte. In questo caso l'inchiesta è nata su falsi braccianti agricoli e falsi rimborsi fiscali. 236 37 falsi percettori, o meglio veri percettori del reddito ma falsi poveri. C'era anche chi aveva la Ferrari, o chi addirittura aveva un'impresa ma si era dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi, pensa un po'. O c'era chi percepiva il reddito ma era in galera in quanto mafioso. Io non so i controlli come vengono fatti adesso. Vabbè, sta zitto. Ancora due notizie in breve. Transparency International. Allora, questa classifica a mio avviso va presa con le pinze, come anche altre classifiche, perché è la classifica che va a valutare la percezione della corruzione, non la corruzione reale. E noi in questa classifica abbiamo risalito un paio di posizioni rispetto all'anno scorso. Siamo ancora vicini all'Arabia Saudita e al Ruanda, bene invece stanno messe bene invece Finlandia e Svezia, Danimarca e Nuova Zelanda sono ai primi posti. Caduta del Canada, perde 4 punti, Francia e Regno Unito perdono 3 posizioni, anche gli Stati Uniti. Virgilio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, ha detto al microfono nostro Alessio Maurizio: insomma, siamo lieti di vedere un ulteriore miglioramento, ma ci sono problemi che il paese si trascina da sempre senza riuscire a risolverli. Noi facciamo l'analisi di tutto quello che è, viene di tutte le analisi che vengono fatte, le ricerche, sì, di varie istituzioni e su 180 paesi del mondo, e stiliamo una graduatoria, diamo un voto, diciamo, no? Un voto che in centesimi, quindi noi siamo passati da 52 a 53, sì, quindi abbiamo migliorato leggermente il nostro voto. Tanto per intenderci, per chi andava a scuola ai miei tempi un 5,5, ecco. Noi abbiamo fatto delle cose importanti contro la corruzione. Oggi l'Italia è additato come uno dei paesi che ha la migliore organizzazione legislativa e organizzativa anticorruzione. Quindi dei passi sono stati fatti dei passi importanti avanti per quello che riguarda, chiaramente tutto non è risolto, il nostro voto lo dice, però sono stati fatti dei passi avanti che ci vengono riconosciuti anche a livello internazionale, e da questo vedere il miglioramento della situazione dell'Italia nel nostro indice. Che la criminalità organizzata utilizzi la corruzione ormai è acclarato da numerose inchieste e indagini. Oggi è più comodo per loro corrompere qualcuno piuttosto che utilizzare mezzi più aggressivi, diciamo. Se minacci una persona te ne fai un nemico, se lo corrompi te ne fai un socio. Allora partiamo con la Banca Centrale Europea, che ha lasciato come ampiamente previsti i tassi di interesse fermi, quindi il tasso principale resta zero, i minimi storici, quello sui prestiti marginali lo 0,25%, quello sui depositi bancari, l'overnight al meno 0,50%, cioè la Banca Centrale Europea continua a disincentivare il fatto che le banche da lei vigilate possono mettere i soldi, depositare i soldi di notte e riprenderli la mattina, lo dico per farmi capire, perché gli applica un tasso negativo, cioè ci perdi. Questo era nato come, già con Mario Draghi, come tentativo di bloccare i depositi, non di bloccare ma appunto di disincentivare i depositi, in modo che i soldi che la Banca Centrale Europea rende così accessibili venissero dati al sistema produttivo. Allora, e qui veniamo alla parte più nuova della gestione Lagarde, perché nel comunicato la BCE ha detto che i tassi restano fermi o anche più bassi rispetto ai livelli attuali finché servirà, e gli acquisti di titoli di Stato da 20 miliardi al mese, quindi quantitative easing, andrà avanti finché necessario, e lo ha ribadito anche nella conferenza stampa la stessa Christine Lagarde: tassi bassi e quantitative easing finché servirà. Finché l'inflazione, le prospettive di inflazione convergeranno robustamente vicino al 2%. E poi la Lagarde ha annunciato una revisione strategica della politica monetaria che sarà ad ampio raggio. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre regolari analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Ci aspettiamo che rimangano ai loro livelli attuali o inferiori fino a quando non abbiamo visto le prospettive di inflazione convergere robustamente a un livello sufficientemente vicino, ma inferiore, al 2%. Continueremo ad effettuare acquisti netti nell'ambito del nostro programma ad un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Ci aspettiamo che durino il tempo necessario per rafforzare l'impatto accomodante dei nostri tassi, per poi terminare poco prima dell'inizio del rialzo dei tassi. Intendiamo continuare a reinvestire integralmente i pagamenti principali dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma per un periodo di tempo prolungato oltre la data in cui inizieremo ad aumentare i tassi di interesse, e in ogni caso per il tempo necessario a mantenere condizioni di liquidità favorevoli e un ampio grado di accomodamento monetario. Oggi, inoltre, il Consiglio direttivo ha deciso di avviare una revisione della strategia di politica monetaria della BCE. Review of the ECB's monetary policy strategy. Oh, poi arriveremo invece alle dichiarazioni di Christine Lagarde per quello che riguarda i dazi, il protezionismo e insomma anche l'accordo Stati Uniti-Cina, l'incontro von der Leyen-Trump. sul commercio. Però nel ringraziare il professor Donato Masciandaro, che insegna economia monetaria all'Università Bocconi di Milano, nonché editorialista del Sole 24 Ore, buonasera professore. Buonasera, grazie dell'invito. Vorrei parlare con lei prima di tutto della parte che riguarda i tassi. Che lei ha capito, al di là diciamo della frase, dove andrà a parare o dove si indirizzerà questa revisione strategica della politica monetaria, revisione ad ampio raggio? La risposta è no. Io ho una doppia reazione. Allora, è positivo che dopo oltre un decennio in cui non si rivede la strategia, la Lagarde abbia deciso di farlo. È negativo che praticamente non ha detto nulla. Che cosa voglio dire? Non per aumentare il campionario ornitologico, evitiamo gli specchietti per le allodole. Evitiamo di dire i cantieri sono aperti, prima di dicembre non accadrà nulla. Questo può essere positivo perché se non ci sono shock abbiamo chiaro quale sarà il profilo. Poi a qualcuno può piacere questo profilo, ad altri no, però almeno sappiamo che cosa accadrà, cioè nulla. Se invece uno specchietto delle allodole, questa strategia aumenta solo le ambiguità e non è un bene. No, ma guardi, anch'io ho avuto difficoltà a capire cosa fosse questa revisione strategica ad ampio raggio, perché nel frattempo, concretamente, come atti concreti, la Lagarde ha, come ricordavo in apertura, confermato che i tassi resteranno fermi a livello di zero o addirittura più bassi se necessario. Il quantitative easing, l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea, e quindi poi lo stampaggio di moneta, come dico, continuerà con 20 miliardi di acquisti al mese, quindi terrà bassi i rendimenti e terrà basso in qualche modo anche lo spread tra i titoli italiani e tedeschi. E quindi lì, voglio dire, ha confermato in tutto e per tutto la linea di Mario Draghi. E poi appunto c'è questa revisione strategica che non ho ben capito. Lei diceva non a tutti può far piacere, in effetti. Da Davos, il numero uno di Deutsche Bank, Christian Sewing, è tornato a criticare la Banca Centrale Europea, ha detto abbiamo sbagliato l'uscita dal periodo dei tassi negativi, l'introduzione è stata giusta per salvare l'euro, ora il loro permanere aumenta sempre di più il gap, la differenza che si sta creando tra le aziende e gli investitori beneficiano dei prestiti a basso prezzo e coloro che vedono i loro risparmi pensionistici erodersi. Oddio, la prima battuta è che essendo lui il numero uno di Deutsche Bank, gli direi anche pensa intanto alla banca tua, perché è la banca più malata in questo momento in Europa. Però Masciandaro, non è un mistero che molti banchieri, soprattutto tedeschi, iniziano ad avere un po' di mal di pancia con i tassi a zero, perché i margini di intermediazione, cioè i margini con cui la banca guadagna, sono anch'essi a zero. Beh, è anche vero, ricordiamo anche che la Svezia ha deciso, che è stata la prima a iniziare gli esperimenti, ha deciso di smettere. Oggi la Lagarde ha continuato ad essere fiduciosa sul fatto che alla fine i falchi e le colombe si troveranno d'accordo, ma ci sono, peraltro oggi sfoggiava una bellissima civetta dorata durante la conferenza stampa. Però, ripeto, la cosa importante è aumentare le certezze e la trasparenza di quello che si farà e soprattutto non far finta che non ci siano dei nodi. Ci sono dei nodi su quale deve essere l'obiettivo, ci sono dei nodi su quali devono essere gli strumenti. Insomma, oggi abbiamo fatto così, abbiamo buttato la palla in tribuna, ma non si può andare avanti un anno così, ecco. Però lei non ritiene che, adesso io vorrei far sentire anche la Lagarde sul protezionismo e i rischi dell'incertezza, magari dopo il meteo e la pubblicità, perché poi la domanda che ho per lei, Masciandaro, è ma tanto, voglio dire, che cosa potrebbe cambiare? Abbiamo prospettive economiche quest'anno che sono deboli per l'Italia, 0,4, 0,5, 0,6, ma non è che la Germania dovrebbe fare 1,2, 1,1 con ancora molte incertezze sui dazi. Io penso che insomma difficilmente la Banca Centrale Europea potrà permettersi anche solo di ragionare su un aumento dei tassi. Però la risposta dopo il meteo e la pubblicità, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. We'll be right back. 17:38 minuti. Dunque, sentiamo Christine Lagarde appunto sul tema protezionismo come elemento di incertezza e di rischio per la crescita, e poi la risposta del professor Masciandaro alla mia domanda, cioè che con queste prospettive di crescita ancora deboli e i rischi di una crescita che possa essere in parte azzoppata da nuove tensioni protezionistiche, in questo caso dazi tra Stati Uniti e Europa, io non vedo un motivo per cui dovrebbero salire o modificarsi i tassi di interesse. Comunque la Lagarde prima. Trade is actually an important element in our considerations. Il commercio internazionale è un importante elemento nelle nostre considerazioni circa la politica monetaria, in particolare quando parliamo di rischi al ribasso. Penso che uno degli elementi critici che erano emersi dal nostro ultimo incontro a fine dicembre sia la conclusione della fase 1 del negoziato tra USA e Cina sui dazi, che ha leggermente ridotto le incertezze. La BCE monitorerà con grande attenzione le vicende sul commercio internazionale per capire esattamente quale sarà l'impatto per l'area euro. Circa i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea, sono stata rincuorata dall'incontro di qualche giorno fa tra la Presidente della Commissione europea e il Presidente statunitense. Sappiamo che i risultati dell'incontro sono preliminari, ma penso che la determinazione di entrambi per arrivare a una conclusione positiva, per portare avanti i negoziati e i toni del rapporto tra USA e Unione europea, debbano essere presi come segnali positivi. Allora, professor Masciandaro, per concludere, al di là appunto della revisione strategica di quello che può essere uno specchietto per la Londra, elementi alla luce anche di quello che abbiamo appena ascoltato per una modifica di fatto dei tassi di interesse, io personalmente non ne vedo. Assolutamente no, ma la Lagarde dal suo punto di vista ha scelto la strategia vincente, ha massimizzato il consenso. Perché nei fatti i tassi per un anno non si alzeranno, forse saranno più bassi. Il fatto che ormai non serva a niente, questo ne riparliamo alla fine della revisione strategica. L'altro specchietto degli Annolon, io francamente spero che non sia così, è il cosiddetto cigno verde, questo continuare adesso una parola su due a parlare del rischio di cambiamento climatico. Ecco, anche su questo davvero spero che non sia un altro specchietto per le allodole, perché credo che la politica monetaria tra cigni e civette e allodole stiamo un attimo rasentando la zootecnia, però sono d'accordo con lei. Devo dire che io vedo in questo continuo richiamo anche oggi alla Gada e tutti dobbiamo combattere i cambiamenti climatici, mi sembra che vi sia anche, e lei ha detto, sono parte della nostra revisione strategica anche il tema dei cambiamenti climatici. Ora, con tutto il bene che voglio alla Lagarde, non riesco a capire cosa c'entri la Banca Centrale Europea con i cambiamenti climatici. Adesso non è che in base ai tassi di interesse o la massa monetaria o l'acquisto di titoli di Stato. Sì, potrei magari prediligere l'acquisto di titoli di Stato su aziende, su che cosa? O su privati che hanno un approccio più verde? Bah, sarebbe discriminatorio per gli altri. Penso che vi sia, professor Masciandaro, anche molto greenwashing, come lo chiamano gli inglesi, cioè usare il termine verde, sostenibilità, perché va di moda, per restare nell'attualità. Grazie anche al professor Donato Masciandaro. Visto che parliamo di sostenibilità, ci spostiamo su un settore che della sostenibilità vede i due aspetti, cioè rischi di essere per alcuni versi anche minacciato da alcune politiche. Mi riferisco al settore dei trasporti, che oggi però ci interessa per, diciamo, come elemento indicatore dell'andamento economico. Sappiamo che esistono infatti degli indicatori economici, non quelli classici dell'Istat, il PIL, vendita al dettaglio, ne sono molti altri. Uno di questi per esempio è il consumo elettrico. Quando l'economia tira e va, aumentano i consumi elettrici, perché aumentano i consumi elettrici delle grandi imprese, delle imprese in generale. Un altro indicatore è il trasporto merci. Quando l'economia va o ha segnali di ripresa, aumenta il trasporto merci. Lo dico perché i dati diffusi oggi dall'Osservatorio congiunturale dei trasporti di Confcommercio in collaborazione con Conftrasporto per il 2019 segnalano invece che il trasporto merci ha fatto più 0,5% l'anno scorso, quindi è rimasto in linea totale con il PIL. Meglio è andato il trasporto passeggeri, spinto dal turismo, più 2,5%, anche se è un po' rallentato rispetto agli anni prima, quando cresceva del 3,5%. 1,4%. Sì, a fine anno 2019 risultavano attive 115.379 imprese nel trasporto terrestre, di cui è mediante condotto, come si dice in gergo, di cui 80.000 trasporto merci, 2.400 trasporto marittimo e per vie d'acqua, 200 imprese che si occupano di trasporto aereo e poi ci sono 26.700 imprese che si occupano di magazzinaggio, attività di supporto e trasporti. E poi servizi postali, attività di corriere, 3.923 imprese. Paolo Uggè, vicepresidente di Confcommercio di Conftrasporto, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta Uggè, dicevo che al di là del dato interessante per il vostro settore, a noi interessa la fotografia che ne esce dell'economia italiana. Più 0,5% è una stagnazione, ho visto che andava bene solo il trasporto su gomma. E se vorrei un primo commento su questo e invece la crescita ancora del trasporto passeggeri. Beh, la crescita del trasporto passeggeri deriva chiaramente, anche se minore rispetto alla linea di tendenza, rispetto al passato, che il turismo ha prodotto come risultato una movimentazione di persone superiore agli altri anni, appunto, di questo percentuale. Per quanto riguarda il trasporto merci, esce confermata una linea chiaramente evidente, cioè che siamo in una fase nella stagnazione e che rischia addirittura di precipitare nella recessione se continuiamo su questa linea. E quindi è certamente preoccupante, perché è in linea purtroppo con i risultati che non sembrano essere così brillanti come magari invece qualcuno tende a presentarci, insomma. Ecco, dopo il traffico vorrei capire poi all'interno del trasporto merci che cosa sia andato un po' meglio e che cosa invece abbia avuto più debolezza e quanto abbiano pesato anche le tensioni sui dazi. Noi abbiamo visto comunque un rallentamento del commercio mondiale sia per le tensioni Cina e Stati Uniti, ma che poi hanno avuto una ripercussione anche su i rapporti Cina-Europa e Europa-Stati Uniti. E poi magari se mi commenta anche un elemento invece positivo, perché l'intermodalità e quindi il passaggio treno-nave o nave-treno sembra che stia funzionando. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Uggè, quanto hanno pesato le tensioni commerciali? Cioè, se poi il dato di stagnazione e rallentamento è più sulla parte nave, quindi trasporto, diciamo, ho visto invece tenere trasporto su gomma e mi sembra che invece qualche notizia positiva arrivi dalla intermodalità, tema scoperto e anche elemento debole nel nostro sistema, diciamo, dei trasporti. Prego. Beh, l'intermodalità non ha certamente avuto la riuscita che ci si attendeva, perché al di là di tutto se le ferrovie, se il mare ha diminuito la propria presenza nei traffici, chiaramente anche il trasporto intermodale ne subisce le conseguenze, quindi sono sempre meno automezzi che salgono sulle navi o sui treni. Ed è chiaro che la situazione mondiale di quella che è una evidente fase di modesta, ancora speriamo che finisca, regressione, ha creato quella situazione che noi vediamo da questi dati. E un dato positivo nell'autotrasporto è fornito dal cambiamento della struttura delle imprese, dove ormai il fenomeno del padroncino, che fino a qualche anno fa era vicino al 70%, oggi è sceso intorno al 50%, che vuol dire che molte realtà o sono uscite dal mercato o sono diventate imprese, e che sono incrementate fino ad arrivare al 24,5% le imprese, le società, diciamo, e quindi vuol dire che c'è una crescita imprenditoriale che è sicuramente positiva. Però sull'incremento del trasporto, tornando su quello, la domanda che bisogna farsi è quanto di questo trasporto sia stato effettuato dalle imprese italiane e lì volevo arrivare. Quanto sia stato invece effettuato dalle imprese estere o italiane estero vestite, perché anche questo ha un peso significativo per quanto riguarda. Lo dico perché voi lamentate da anni la concorrenza sleale, perché insomma il mercato è unico in Europa, però la concorrenza sleale che arrivava soprattutto, se non ricordo male, dall'est Europa. Ecco, a che punto siamo su questo? Ma guardi, la concorrenza sleale continua imperterrita. Quello che nessuno è in grado di poter dire con certezza è se questa concorrenza sleale è fatta da imprese italiane che sono andate all'estero e quindi utilizzano le condizioni migliori che ci sono in questi paesi, o se effettivamente è fatta da vettori, operatori che sono residenti in quei paesi. Dai dati, però, sono dati ufficiosi, diciamo, che derivano dalle nostre valutazioni, noi abbiamo una esplosione del fenomeno dei vettori polacchi, dei vettori bulgari, che stanno occupando chiaramente quelle che sono le quote di mercato che prima erano appannaggio del nostro trasporto. Quindi per noi questa situazione, della nostra valutazione, è in peggioramento, e un elemento che lo peggiora ancora di più e concorre a peggiorarla è dato dalle iniziative che l'Austria sta assumendo sul Brennero, introducendo ostacoli alla libertà di circolazione. Questo qui, oltre a andare contro i principi sui quali si è costruita l'Unione Europea, sicuramente produce un aumento del costo del trasporto, ma addirittura una perdita di competitività dell'intero sistema produttivo, perché i trasportatori non è che vanno a spasso, portano le merci trasportate e prodotte in Italia. Quindi se l'Unione Europea non interviene a far rispettare quello che è uno dei principi fondamentali della Costituzione dell'Unione stessa, noi ci troveremo come Paese Italia, e stupisce che il governo non intervenga con la dovuta determinazione, ci troveremo veramente in grande difficoltà come Paese. Senta, Uge, un'ultima cosa, invece per quello che riguarda il trasporto su ferro, su ferrovia, c'è stato qualche miglioramento? Allora, al di là delle polemiche sull'alta velocità, che come ho spiegato molte volte non è utile solo ai passeggeri finire la T e quindi completare la Milano-Venezia, è utile anche il trasporto merci, perché tu liberi i binari, per dirla male, dai treni che attualmente viaggiano sulla linea tradizionale, su quella storica, e quindi hai più spazio per far viaggiare i treni merci. Ma al di là dell'alta velocità, c'è stato un miglioramento sul trasporto via ferrovia, via ferro? Non significativo. E questo è dovuto anche al fatto che noi ormai da tempo ci produciamo e trasportiamo quello che produciamo, quindi si produce per flussi e le merci vengono consegnate in tempo il più stretto possibile, perché il sistema produttivo è fatto in modo tale per cui non vuole scorta di magazzino, bravo, non c'è più il magazzino. Il cittadino lo vede quando va nei negozi a comprare qualcosa, molto spesso si sente dire ci sarà fra tre giorni, perché l'ordinativo viene fatto dopo che l'acquisto è stato realizzato. E quindi sembra un modello, se mi passa la battuta, Amazon Prime, cioè esatto, uno è sicuramente proprio questo, perché è evidente che il cliente sempre chiede la merce e di riceverla quando è comodo a lui, e non quando è comodo allo speditore. Ma nel frattempo si crea anche un'ulteriore situazione, un aumento di traffico. Infatti noi vediamo nelle città come il problema della distribuzione delle merci produce molti più viaggi rispetto a prima. Cioè, quando si affrontano questi temi andrebbero valutati con maggiore attenzione le conseguenze che si determinano. Infatti io aspetto da tempo un'analisi seria che ci dica, senza accuse con Amazon, però il modello Amazon, che poi mica fa solo Amazon, ci sono anche tante altre consegne a domicilio, sta riducendo il traffico nelle città o lo sta aumentando? Nel senso che io posso anche immaginare che ci siano meno cittadini che prendono la macchina per andare a fare acquisti, perché se li fanno arrivare a casa. Però poi vorrei anche capire se non è aumentato in parallelo il numero di acquisti che tu ti fai arrivare a casa, non so come spiegare. Quindi rinunciando all'effetto benefico. E su questo devo dire che ogni tanto siamo anche noi diciamo masochisti, perché ho tutta questa enfasi nell'arrivo del bene, del libro che ha ordinato, della maglietta, di quello che vuoi tu, entro un giorno, ma uno può aspettare anche due giorni, tre volte. Però questa è una mia riflessione. Quello che è importante, quello lo vediamo dappertutto, è che vuoi per motivi di incertezza economica, vuoi perché è cambiato l'atteggiamento del cliente, come ricordava Uge, i magazzini si sono ridotti, le scorte di magazzino sono sempre più ridotte, cioè si lavora, una volta si sarebbe chiamato just on time, ma non è esattamente questo, e con la conseguenza che appunto tutta l'attività diventa più a breve termine, sia nell'ordinativo che poi nella consegna meno pianificabile. Grazie anche al presidente al vicepresidente di Confcommercio di Conftrasporto Paolo Uge. Andiamo sul GR24 e poi borsa e Brexit. BNB 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Cinema, voli aerei, giochi, libri o web. Una vita di piccole grandi cose. E dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose. Perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24. La corsetta al parco è immancabile, anche sotto la pioggia. Basta attrezzarsi. Con i cappottini e gli impermeabili in sconto al 30%. E con qualcosa di buono per ricaricarsi, come Cesar 150 grammi, vaschette, gusti assortiti in promozione 3x2 e tutte le diete veterinarie scontate del 20%. Ma affrettati, le promozioni scadono il 26 gennaio. Ah, grazie. Allora prendo... No, scusi, parlavo con Max. Ogni giorno 1000 promozioni da Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. Buongiorno. Buongiorno. Mi hanno detto che questa Mini ha i fari B-LED come optional. Le hanno detto male. Ah, e l'Active Guard? Nemmeno. Il Cruise Control? No. Almeno i cerchi in lega. Quelli da 17? Sì. No. I cerchi in lega? L'ha appena chiesto. Niente un optional, perché tutto è di serie. Mini Countryman nuova Baker Street Edition 102 cavalli. Tua a 23.400 euro con ecobonus mini ove applicabile e 5.170 euro di vantaggi inclusi. Scoprila in tutte le concessionarie Mini e su mini.it. Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come notebook Asus con SSD 256 giga a 399 euro o in 20 rate da 19,95 euro fino al 2 febbraio. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Fly KLM, fly responsibly. KLM, linee aeree olandesi, è impegnata a sostegno dell'ambiente e per uno sviluppo sostenibile del trasporto aereo. Acquista entro il 27 gennaio per volare verso la destinazione dei tuoi sogni fino al 30 novembre con le nuove offerte Dream Deal. L'Havana e Panama da 429 euro, Los Angeles da 556 euro. Tariffe andate e ritorno da Milano, tasse supplementi inclusi. Per info e condizioni, oltre a notizie sulla nostra politica ambientale, vai su klm.it. Focus Economia. Come on. 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo alcuni messaggi che dicono: guardate che anche il Dry Baltic Index è calato molto relativamente al mondo del commercio. È il Dry Baltic Index è quell'indicatore molto importante per capire come va il commercio, sostanzialmente stabilisce un punto attraverso dei punti quello che è il costo del nolo per i cargo di tutto ciò che non è oil o energia, cioè non le, le petroliere per capirci, ed era crollato dopo la crisi del 2008 a livelli mai visti prima. Mi segnalano ascoltatori che è tornato sotto i 700 punti e questo la dice lunga appunto sulla non ripresa, non ripartenza, anzi sul calo del commercio a livello mondiale. È infatti un indice che mette assieme i costi di tantissime tratte di cargo in giro per il mondo. Accolgo volentieri l'obiezione e infatti l'ho ricordata. Andiamo sulla borsa adesso. Milano ha chiuso 0-0-0, per cui mai visto uno zero così secco da tempo. Per quello che riguarda il FTSE MIB a 23.700 punti, negativo invece Francoforte di un punto percentuale Londra dello 0,90, Parigi dello 0,70 e Dow Jones meno 0,50. Il virus corona, cioè il rischio che possa creare tensioni anche di carattere economico, ha penalizzato questa mattina soprattutto le borse asiatiche. Chiaramente l'Hang Seng, che è l'indice di Hong Kong, ha chiuso con un calo dell'1,70%, male anche il Nikkei meno 1%, ed è stato motivo anche un po' di speculazione su vari settori. Penso al settore petrolifero, petrolio in calo, con l'ipotesi che possano esservi meno richieste petrolio per una come effetto, diciamo, di quella che è ancora difficile e prematuro a mio avviso chiamare epidemia. Comunque adesso vedremo che cosa dirà l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Enrico Miele del Sole 24 Ore, buonasera Radio a voi. Corre Sole 24 Ore. Allora, al di là della BCE, che ha avuto poco impatto oggi, mi sembra che ne abbia avuto di più quantomeno la speculazione sul virus, sul coronavirus, il petrolio ha perso il 4%. Da noi va particolarmente male oggi Moncler, meno 2,80%, e in realtà il lusso non se la passa bene, anche Ferragamo perde l'1,60%, io ho visto anche Tod's in calo. Ma è il coronavirus? Beh sì, in realtà la lettura principale degli analisti anche sui titoli del lusso è stata legata al virus cinese, tant'è vero che anche alla Borsa di Parigi i principali gruppi francesi del lusso hanno chiuso tutti quanti in rosso. E questo perché? Perché ovviamente la paura, quello che anticipavi tu, cioè la paura del contagio, poi rischia ovviamente di avere degli effetti sul commercio mondiale e soprattutto su quei marchi molto esposti verso l'export, verso e verso i segmenti di lusso del mercato cinese. Mm-hmm. Sì, mi sembra, per carità, non sono un epidemiologo, però insomma mi sembra un po' di speculazione, un po' di onanismo borsistico, mettiamola così, perché adesso arrivare a vendere in quel modo, immaginando un calo forte delle vendite del lusso in Cina per via del coronavirus, così mi sembra un pochino, appunto, ma ci sta tutta la speculazione quando mancano altri temi. Meno 2,77% Moncler, dicevamo, e i titoli del lusso. Poi invece tra chi è andato molto bene, vabbè, il petrolio oggi, essendo così in calo, ha penalizzato tutti i titoli legati al petrolio. Saipem meno 2,20% da questo punto di vista, e Eni meno 0,80%. Sul fronte opposto invece, Enrico, c'è stato soprattutto il balzo di ST Microelectronics, più 6,55%. Ora, i risultati del 2019 vedono i ricavi in calo a 9,5 miliardi e l'utile in calo di quasi il 20%, $1 miliardo. Come mai invece tutto questo, diciamo, corso agli acquisti in borsa? Perché in realtà il focus sui conti di ST è stato sul quarto trimestre dell'anno che si è appena concluso, dove i ricavi hanno segnato un rialzo del 7,9%, così come l'utile netto che ha segnato un rialzo del 30% sul trimestre precedente. In questo caso gli analisti hanno rilevato come i risultati sia del quarto trimestre sia le stime per il 2020 sono risultati superiori alle stime del mercato. Non dimentichiamo che il settore di ST, che ricordiamo produce semiconduttori per i nostri smartphone, su tutti come cliente Apple, è stato uno dei settori negli ultimi mesi più esposti rispetto al tema dazi tra Pechino e Washington, visto la fase distensiva che in questo momento sembra condizionale d'obbligo vivere i rapporti tra Trump e la Cina. Ovviamente i settori che sono stati più esposti nel recente passato a queste tensioni commerciali stanno respirando. Sì, e tu appunto giustamente ti focalizzi sugli ultimi dati, quindi l'ultimo trimestre dell'anno. Bene anche ERA più 3,11%, Terna più 1,70%, poi andando Italgas più 1,30, A2A più 1,20, Snam più 1, Enel più 1%, Recordati più 0,80. Andando sui migliori e peggiori invece, Unieuro oggi ha perso tantissimo, meno 7,60%. Sì, esatto, perché c'è stata la vendita del 17,6% del capitale da parte di Italian Electronic Holdings. La conseguenza principale è stato il fatto che il flottante di Unieuro, dopo questa cessione fatta con strumenti accelerati supera la soglia dell'85% del capitale, quindi Unieuro è diventata una vera e propria public company e in questo caso, come spesso succede, il prezzo delle azioni si è riallineato rispetto al collocamento avvenuto nelle scorse ore, quindi insomma i valori si sono avvicinati. Allora, visto che eravamo sui migliori e peggiori, continuo con migliori e peggiori. Oltre a Unieuro, Titanet meno 8,30, Ambientesis meno 9,70, Fronte Opposto, Risanamento più 14,60, Gabetti più 12, Edes più 9, CIA più 7, poi appunto ST Microelectronics di cui abbiamo parlato bene, anche HFAM più 5,41%. Qualcuno mi chiede del rapporto euro-dollaro che non ho dato, ma è sostanzialmente fermo, ma è veramente mesi che è fermo. Siamo a 1,10 nel rapporto euro su dollaro. Grazie anche Enrico Miele di Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso andiamo, devo dare due notizie perché il Consiglio dei Ministri che si terrà stasera dovrebbe varare il decreto sul taglio del cuneo fiscale. Dalle bozze che l'ANSA sta anticipando in rete viene confermato l'impianto che abbiamo raccontato anche in queste settimane, cioè andrà su, in chi già utilizza gli 80, il beneficio degli 80 euro di Renzi si sommeranno la riduzione del cuneo fiscale, però la cosa nuova è che per 2 milioni e mezzo di lavoratori che non beneficiano degli 80 euro arriveranno ad avere una detrazione di almeno 80 euro mensili, è la fascia di reddito tra i 28.000 e i 35.000 euro l'anno, nel senso che gli 80 euro di Renzi toccavano il loro massimo verso i 26.000 e poi scomparivano. Dopo, tra i 35.000 e i 40.000 euro l'anno, invece, euro all'anno, non vi sarà si va nel cosiddetto decalage, cioè va a scomparire molto rapidamente il beneficio. Però i dati del MEF, del Ministero dell'Economia e Finanze, segnalano appunto che 2 milioni e mezzo di lavoratori potranno contare sul bonus pieno di 100 euro in quella fascia, e poi ce ne sono altri che si trovano nella fascia 26.000-28.000 euro, e il guadagno dovrebbe essere nella parte fino a 28.000 euro, che è quella dove ottieni più di 100 euro al mese, nel senso che in questo caso si sommano 80 più 20 e comunque 80 euro nella fascia 28.000-35.000 euro. Vedremo poi tutti i dettagli quando arriverà il decreto del governo. Adesso andiamo sul traffico e poi forse si chiude la saga Brexit, o meglio si chiude sicuramente da un punto di vista formale. Io ricordo che Radio 24 poi avrà proprio il viaggio verso la Brexit a partire dalla prossima settimana, che si concluderà con il nostro Sergio Nava che seguirà, appunto si parlava prima di autotrasporto, un camion al confine tra Calais e Dover, quindi il porto di imbarco principale per le merci verso la Gran Bretagna e diciamo dalla Gran Bretagna verso il continente europeo, e per capire poi se vi saranno a cavallo tra il 31 e il primo tensioni, problemi, oppure se tutto scorrerà liscio per poi andare fino a Londra e capire com'è viene vissuta anche dalla numerosissima comunità italiana, come sarà vissuta la prima giornata, diciamo, formalmente fuori dall'Europa, o meglio, è iniziato formalmente il percorso. Perché ne parliamo oggi? Perché la regina ha messo la sua firma, si chiama Royal Assent, quindi assenso reale, al testo della legge European Union Withdrawal Agreement Act, che ieri aveva concluso tutto l'iter parlamentare e quindi la ratifica parlamentare a Westminster a 3 anni e 7 mesi dal referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, che ricorda del 2016. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Beh, ma l'amore con la Brexit? No, però dai, c'è. C'erano i Sex Pistols da mettere, dico in regia, oggi siamo in diretta da Roma, non ci siamo capiti. God Save the Queen. Allora, me la cambiamo sta base, mettiamo i Sex Pistols, così non è l'elemento principale, ma è per alleggerire un tema che si è trascinato oltre ogni immaginazione possibile. Vediamo se prima o poi il messaggio arriverà in regia a Milano. Si è trascinato oltre ogni limite immaginato, ricorderete la figuraccia lo scorso ottobre, adesso ci siamo. Tra l'altro segnalo, visto che stiamo anche un po' alleggerendo, che c'è una proposta arrivata nel Parlamento britannico dai banchi dei conservatori dei Tory per celebrare alle ore 23 locali del 31 gennaio il momento formale dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Vorrebbe la deputata uno spettacolo di fuochi d'artificio sulle bianche scogliere di Dover, i cui bagliori siano visibili fino alle coste francesi. Vabbè, insomma, mi sembra una cosa... però l'idea di far suonare Big Bang resta in dubbio. Chiaramente Boris Johnson punta ad avere anche dei festeggiamenti, perché insomma ha fatto la campagna elettorale e l'ha vinta con lo slogan "portiamo a complimento la Brexit", e giustamente dal suo punto di vista festeggia. Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra, buonasera. Buonasera a voi. Leonardo, fuori da ogni celebrazione, festeggiamenti, non so, personalmente non avrò nulla da festeggiare. La sensazione in Gran Bretagna è che comunque il 31 gennaio sarà una data formale, importante per la politica, importante appunto per chi vuole incassare politicamente, giustamente l'obiettivo raggiunto, ma molto meno importante nella vita pratica e quotidiana di tutti i giorni? Sì, nella vita pratica e quotidiana di tutti i giorni sarà una giornata normale, nel senso che comunque ci sono c'è un periodo di transizione che dura almeno 11 mesi, durante il quale tutto rimarrà esattamente come per la vita, diciamo, per l'esistenza quotidiana di cittadini britannici e di residenti europei nel Regno Unito, naturalmente. E per quello che riguarda invece il peso formale della data del 31 gennaio, no, questo è importante, è fatto bene a sottolinearlo. È una vittoria di Boris Johnson, si è battuto come un leone, piaccia o non piaccia, per ottenere quanto è riuscito a ottenere, non attraverso un percorso obliquo e ambiguo, ma attraverso elezioni generali che lo hanno visto trionfare come nessuno aveva previsto inizialmente. Quindi sì, dal punto di vista politico è una vittoria personale di Boris Johnson, del Partito Conservatore e dei Brexiters, bisogna ammetterlo, anche se io non sono mai stato un Brexiter. No, e soprattutto una vittoria che viene celebrata nel momento in cui sia i liberali, ma soprattutto i laburisti in Gran Bretagna, dopo la batosta di Corbyn, sono così in una fase di grande travaglio per essere buoni alla ricerca di un leader. Quindi mi sembra che dal punto di vista politico interno, Leonardo, Johnson in questo momento abbia dei mesi molto tranquilli davanti, no? Assolutamente sì, i laburisti ad aprile sceglieranno un nuovo leader, che non sarà certamente Jeremy Corbyn. D'altra parte, se il partito si è ridotto nelle condizioni in cui è, la responsabilità è solo sua, e se la Gran Bretagna è uscita dalla Brexit la responsabilità è largamente sua. Il candidato più probabile alla guida del partito laburista è una sorta di moderato, diciamo, seppure nell'ala radicale del partito, cioè non un bleriano, ma insomma quello che stava alla destra abbondante di Corbyn, e questo Keir Starmer. Non era difficile stare alla destra di Corbyn, nel senso esattamente. C'era solo lui a sinistra, così a sinistra. Era l'ex ministro ombra sulla Brexit, cioè quello che in realtà voleva portare il partito ad ottenere un secondo referendum. Torniamo ai temi che interessano di più noi, nel senso che ci sono 700.000 più o meno italiani residenti in Gran Bretagna che o studiano o lavorano, Ecco, tu ricordavi, perché oggi c'è una dichiarazione anche del commissario europeo agli affari economico monetari Gentiloni, che dice: noi siamo disponibili a qualunque tipo di accordo, anche il più ampio possibile, però dipenderà appunto dal principio di reciprocità. Cioè l'Unione Europea ha sempre detto: bene, se la Gran Bretagna non vuole avere troppi vincoli sulle merci, deve darlo alle persone e viceversa. Ecco, questo è il punto chiave per il quale in effetti la Brexit non è finita, nel senso che fino adesso arriviamo al passaggio formale dell'uscita, adesso bisogna trattare, come dire, i dettagli non affatto secondari, ma anzi chiave per il futuro britannico, in misura minore per il futuro dell'Unione Europea. Io ho visto una proposta per i residenti. Leonardo, ho visto una proposta non vale solo per gli italiani, vale per tutti gli europei, spagnoli, francesi, tedeschi, che mi è sembrata complicatissima per ottenere lo status. Forse insomma, era solo una bozza, ma non mi sembra che le idee siano molto chiare su che cosa capiterà a chi lavora o studia in Gran Bretagna, che status avrà. No, chiariamo che chi è dentro fino a chi è già residente a essere residente da più di 5 anni ha acquisito lo status di residente permanente. Chi è residente già da meno di 5 anni, quando avrà maturato i 5 anni, potrà chiedere lo status di residente. Il problema si pone per i nuovi. Bisogna vedere chi e che condizioni verranno definite dalle parti nel negoziato su le nuove, come dire, regole di libera circolazione o di semi-libera circolazione dei cittadini britannici nell'Unione Europea e europei in Gran Bretagna. È chiaro che dal punto di vista, cioè, qui si parla tanto di negoziato, per me non è un negoziato. Cioè, l'Unione Europea ha delle regole del mercato interno. Nessuno è pronto a flettere quelle regole per renderle, come dire, molto elastiche, per favorire, non si capisce per quale motivo, il Regno Unito. Quindi certo, ci sono delle regole, quanto più si avvicinano a quelle regole, tanto più avranno accesso e condizioni analoghe. No, hai fatto bene a ricordare che non è un negoziato, cioè l'Europa non può neanche immaginare lontanamente di cambiare le sue regole. Esattamente. Perché deve fare un favore alla Gran Bretagna che esce dall'Europa. Altra certo, cosa è vedere che la Gran Bretagna adotti, diciamo, un meccanismo il più vicino possibile a quello europeo, che è un altro discorso, ma non è una trattativa in cui le due parti vanno a cedere qualcosa. Senti, un'ultima domanda, Leonardo, poi ripeto, Radio 24 avrà proprio il viaggio la prossima settimana della Brexit, che appunto è anche il viaggio fisico di Sergio Nava tra Calais e Dover. Mi sembra che in questa vittoria di Johnson e in questo, diciamo, suo successo e la caporetto dei laburisti, si sia anche un po' soppita l'altra patata bollente, cioè mi riferisco all'indipendentismo scozzese. Non vedo in questo momento da lì arrivare una minaccia per Johnson. No, ci sono due minacce per Johnson. Prima dell'indipendentismo scozzese, a mio avviso, c'è la questione nordirlandese, che è destinata a esplodere più rapidamente di quella scozzese. In entrambi i casi non c'è dubbio però che la Brexit lascia uno scenario di possibile, non dico probabile, ma di possibile esplosione del Regno Unito per come lo conosciamo adesso. Cioè la prospettiva di una secessione scozzese, di una riunificazione dell'Irlanda del Nord con l'Irlanda, con la Repubblica d'Irlanda, sono scenari divenuti assolutamente possibili, mai così possibili come negli ultimi decenni. Certo. E lì sarà importante, tornando a quello che tu dicevi, capire poi che accordo farà la Gran Bretagna con l'Unione Europea, perché più l'accordo sarà limitativo nello spostamento, nella libera circolazione di merci e persone, più queste tendenze, diciamo, indipendentiste o la disgregazione avranno forza, perché sappiamo che la Scozia non vuole subire, diciamo, questa, essere isolata, e la vittoria dei nazionalisti scozzesi sarà netta, così come l'Irlanda nella componente cattolica non vuole, l'Irlanda del Nord, ritrovarsi, diciamo, a essere di serie B rispetto all'Irlanda, al resto dell'Irlanda. Su questo punto sarà però fondamentale capire fin dove la Gran Bretagna si avvicinerà al modello di libera circolazione di merci e persone che esiste in Unione Europea e che esisteva e che esisterà fino al 31 gennaio anche, o meglio, poi ci sono 11 mesi di transizione anche in Gran Bretagna. Grazie Leonardo Maisano in collegamento con noi da Londra. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che tornerà domani come sempre dalle 17 anche la poco invidiabile classifica. Da Sebastiano Barigioni intanto l'augurio di una buona serata.